ogni mattina sveglio ossessionante, vestito, cravatta, pettinarsi, traffico frenetico sul tuo percorso, da vent'anni sempre lo stesso. No! No! No! No! Svelto, fai fretta, apri quelle porte, sali quelle scale, presto, corri, corri! Sei ancora in tempo. La tua vita è grigia, grigia come i bottini della spazzatura. Presto, sei ancora in tempo, devi timbrare, devi timbrare, devi timbrare. Timbra, timbra, timbra, timbra, timbra, timbra. No! Non tomi in colpa vostra, se il vostro mondo non sono mai entrato, perché mi sono uguale a voi, mi sono uguale a voi. No! No! No! No! Libero di scena da prigioni con marcire, libero di scena da chi farti torturare, libero di scena da chi farti soffocare, libero di scegliere come sparire. In questa società sei libero di scegliere. Sei libero di scegliere. Libero di scegliere la tua nevrosi, libero di scegliere la tua frustrazione, libero di scegliere la tua depressione, libero di scegliere come crepare. In questa società sei libero di scegliere. Sei libero di scegliere. Libero di scegliere il tuo oppressore, libero di scegliere il tuo spettatore, libero di scegliere la tua vittima, libero di scegliere come crepare. Fatti del mio pezzo tricolore. Se sei sicuro dei confini, fuori sono gli archi, preparati a sterminarli. Vive la patria, vive la tua patria, non è la mia patria. Ciò che importa è nazionalità, se sono umano non conta. Con i tuoi figli, per te gli stranieri sono nostri fratelli, non per i viventi di madre puttana. Vive la patria, vive la tua patria, non è la mia patria. Ti dica di patriota, ami la nazione, voti del mio verso tricolore. Sei sicuro nei confini, fuori sono gli orchi, preparati a sterminarli. Vive la patria, vive la tua patria, non è la mia patria. Dai criminali, ma da lei chi ti difende? Nessuno, ma è meglio che niente. Perché ti usa come un oggetto per accumulare ricchezza. Per tutti questi bastardi sono meglio che niente. Perché ti usa come carne da cannone. È meglio che niente. È meglio che niente. È meglio che niente. Perché ti vince e vota, ti darà un futuro. Perché ti inganna da sempre. Vuole vederti sottomesso ai suoi valori. Per tutti questi bastardi sono meglio che niente. È meglio che niente. È meglio che niente. È meglio che niente. Per tutti questi bastardi sono meglio che niente. Che sei una merda, nessuna pietà! bianchi, sono i pazienti, da fuori! Stanno aspettando, vogliono averti, sono i pazienti, da fuori! E ora di svegliarsi, di ammazzare il bambino che c'è, svegliati, stanno aspettando da fuori! Aspetta quel di bocca, un po' di stomaco, aspetta la tua pronto per sciorti! E non catena che ti aspetta! Tirano le barre per ricordarti nessuna merda, nessuno in Italia, non sono invogliata con la morale! Svegliati, stanno aspettando i pazzi, malati che si credono sani, non domandare loro la mano, sono qui solo le lame, sono le lame, sono le lame dei loro freddi coltelli! We'll be right back. chiudo gli occhi, mi conto con me stesso. Sentire sono vivo e piango di gioia. Volermi cambiare, di strappare quella maschera che da tempo brucia, brucia e mi affaccia. E allora i miei pensieri volano per il cielo e cerco di qualcuno, un dito in posarsi. E cerco di qualcuno, un dito in posarsi. Asfalto, trovo non solo asfalto. Ogni volta chiudo gli occhi, mi incontro con me stesso. Sento che sono vivo e piango di gioia. Voglio di cambiare, di strappare quella maschera che da tempo brucia, brucia la mia faccia. E allora i miei pensieri vogliono fare il cielo e cercare qualcuno, un dito in posarsi. E cercare qualcuno, un dito in posarsi. Asfalto, trovo non solo asfalto. Si sporcano la vita, feriscono nell'amore e quando mostri il pugno dicono non hai comprensione. Sangue scorre nelle mie vene, le sensazioni scorrono nella mia mente. Quando parlo la gente non capisce, quando mi fanno sentire un verme. I loro sguardi ti cancellano, colpo di spugna sulla lavagna. Sì, lo so, meglio di te, di cambiare un'illusione. Non sei eroi veri, sento che non sono come loro. Non voglio contestare l'amore, per dare l'ultima carezza della vita. Thank you. shivers, bumps in the pressure. Jeremy, on the world of my invitation. Freedom, freedom, let us fight. Freedom, freedom, save them in a game. Freedom, freedom, run it out dead. Freedom, freedom, now I'm in the thing. Oh my darling Tom. Running, shouting, it's a liberation. Freedom, freedom, let us fight. Freedom, freedom, save me again. Freedom, freedom. We'll be right back. l'ultimo, noi siamo sempre prima via. Una patria vogliamo che noi, italiani, siamo come voi. Anche più belli, se lo vuoi, la politica non fa per noi. incazzati,